Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Si chiama Proboscis, è stato finanziato dalla Commissione Europea con 3,5 milioni di euro ed è coordinato dall'IT, l'Istituto Italiano di Tecnologia. E non sorprendentemente, dato il nome, è un progetto che mira a mettere a punto una proboscide artificiale. Parliamo di fatto di una nuova generazione di robot manipolatori bioispirati con sensori e attuatori innovativi, ma soprattutto un manipolatore costituito come la proboscide dell'elefante da materiali soffici. Questo tipo di manipolatori in futuro potranno essere adoperati per esempio nel campo dell'industria manifatturiera, alimentare, ma anche per dar vita a nuovi sistemi di assistenza alle persone anziane e ai disabili. Di tutto questo parliamo con Lucia Beccai, ricercatrice dell'IT di Pontedera, che è appunto la coordinatrice del progetto. Buonasera, buonasera Beccai. Buonasera, buonasera, salve. Allora, intanto ricordiamo che a questo progetto partecipano anche l'Università di Ginevra, quella di Gerusalemme, la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e l'azienda Photocentric del Regno Unito. Allora, per cominciare, forse ci conviene ricordare alcuni numeri o alcune caratteristiche salienti della proboscide dell'elefante, uno in particolare poiché è quello che voi studierete. L'elefante utilizza la proboscide proprio per interagire con il mondo circostante, no? È anche un po' cieco, no? Quindi è anche un po' cieco, nel senso che appunto è un organo sensoriale molto sviluppato, perché ha un olfatto incredibile e è estremamente sensibile al tatto. E integra questa sensibilità con enorme forza, data da quasi 150.000 muscoli. Caspita. È un organo che è molto deformabile, perché si può allungare quasi fino al 40%. Assolutamente flessibile, allungabile, forte, esatto, delicato, esatto, sensibile, esatto, tutto. Pur avendo un peso quasi di 150 kg, no? Quindi come fa a gestire questa forza e questa pesantezza l'elefante? Questo è uno dei segreti che vorremmo svelare. Ecco, perché voi comincerete proprio studiando meglio la proboscide dell'elefante, che non è stata studiata in modo così approfondito dal punto di vista anche della biomeccanica e quant'altro, sia appunto nella sua struttura sia nel modo in cui l'elefante la utilizza sul campo, vero? Ci saranno ricerche su questi aspetti. Esatto, perché vorremmo osserveremo direttamente l'elefante nel suo habitat naturale, grazie alla collaborazione con un centro di ricerca in Sudafrica. E questo rappresenterà proprio un elemento totalmente nuovo, no? Nella robotica bioispirata. Perché gli farete condurre degli esperimenti, darete all'elefante degli oggetti da spostare. In particolare andremo a vedere come sfrutta la propria estremità, l'estremità della proboscide, con le due dita, perché si parla qui dell'elefante africano di savana, che ha queste due dita che utilizza per manipolare degli oggetti piccoli e anche multipli, e questa è una cosa totalmente nuova. Non esiste un esempio artificiale di questo tipo. Sì. Ecco, veniamo quindi all'esempio artificiale che invece voi state cercando di realizzare. Allora, ci descriva quello che ci può dire di questo nuovo manipolatore, che peraltro al momento non esiste, ma insomma, quali saranno le caratteristiche salienti? Cosa cercherete di copiare della proboscide dell'elefante? In realtà noi quello che cercheremo di fare è non copiare, proprio la parola bioispirazione si basa su questo, ovvero sul fatto di ispirarsi alla biologia e di estrarre dei principi per creare della nuova tecnologia. Quindi l'idea è di studiare e esemplificare questi principi ed estrarre poi definire delle specifiche ingegneristiche per delle nuove tecnologie. Quindi il manipolatore robotico, noi pensiamo che avrà un corpo costituito degli attuatori soft a rigidezza variabile, che saranno sensibili ai propri movimenti e che potranno essere organizzati in un'architettura appunto bioispirata, in modo tale da semplificare il sistema. Insomma, non volete avere 150.000 attuatori, o chiamiamoli forse, esatto, muscoli artificiali per semplificare, ma vorrete averne di meno, magari non controllarli tutti in modo diretto, ma facendo in modo che abbiano delle sinergie. E poi cos'altro? E poi avremo un avanzato sistema tattile che fornirà delle informazioni agli algoritmi di controllo, e in particolare andremo a studiare proprio la struttura quasi tridimensionale della pelle rugosa dell'elefante, che è molto sensibile ma molto resistente. Questa sarà una grossa innovazione in campo artificiale, proprio per creare delle nuove pelli artificiali che possono operare in ambienti reali e non in laboratori. Ecco, quindi se mi dovesse dire quali sono le sfide, quali sono gli elementi di novità anche tecnologica che potrebbero arrivare da questa ricerca, quali sono? Allora, innanzitutto è quello di creare un sistema che sia un continuo tra braccio e manipolatore. In genere si trovano artificialmente o dei sistemi che riescano a fare la presa, oppure delle braccia continue. Cioè lei sta dicendo che lo stesso oggetto con queste due dita in punta, che sono la punta della proboscide dell'elefante, riesce ad acchiappare, ad afferrare, ma magari con l'incavo della proboscide può esercitare una forza di sollevamento, come fa l'elefante con un albero, per capirsi. Esatto. E quindi la sfida sarà quella proprio di riuscire a progettare questo sistema che possa gestire proprio diversi pesi. Certo. Diversi pesi, diverse dimensioni, diverse forme di oggetti. E questo comunque in un oggetto, un manipolatore che è fatto di parti soffici, senza, come dire, componenti rigide al suo interno. E l'altra sfida è quella di riuscire a fare queste azioni al manipolatore sulla base di informazioni che vengono dall'ambiente di tipo tattile. Pensiamo a un manipolatore che possa magari scegliere un oggetto più o meno morbido o umido. Per esempio la selezione della frutta, so che è uno dei vostri obiettivi. E lì bisogna tastare per sentire se è matura. Oppure qualcos'altro? Qualche altro esempio potrebbe essere quello nell'assistenza sanitaria per delle persone anziane o disabili, quindi sviluppare delle braccia che possono essere capaci di sollevare, aiutare una persona, però magari porgergli anche una forchetta o un chicco d'uva. Va bene, grazie Lucia Beccai, e in bocca al lupo per questo vostro progetto. Grazie a voi, grazie mille. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori, l'appuntamento con Smart City torna come sempre domani sera. A voi tutti, buona continuazione.